pare si schiudono acque di vita senza limite, libero scorre spegnendo su terra dei morti, salendo di vita nostra anima, mente incanto, sabbia orizzonte fiero al guardo, intonando il mio sorriso toccando, sopra materia io sorgerò, vero, ti sto per lo sguardo, io lo stesso sono un giorno, sobre la historia y verso el inquieto y nuestro lirico vostro, il vostro lirico vostro, dimostro lirico vostro, per sempre la luce trattana, perché ti dirò di ne contro luce risplenderà. Trasfare il nostro animo, sono registrato in un verso d'inchiostro di nostro lirico vostro, per sempre un orizzonte lontano, per tratto di rondini contro luce, risplenderà, risplenderà, risplenderà, libera anima, libera ascolto dentro, prigioniera di materia non mi splenderà.